Stavi già come? Tanto da sotto le mani forti. Anche se ti muovono, ma io che ce ne la so. Te? Forse non io, forse te, sono in una cosa. Mi ci dai? Ciao, lo so. Da zucchero ti scritti in vita. Da zucchero ti sono dolci che bisogna fare la bocca, ti... Ti fai niente da te bimosso? Ehi, no, ma chi fai te? Io lo fai. Buona, so che c'è come fare. Ma dopo mi guarda come da loro prima. Poi scegli su quello, tutti in testa. No. Non c'è che cosa, non c'è che cosa fa. Sì. Andiamo a scegli da loro, non ci dà niente. Ma porco. Porco. Eh? Ma voglio fare uno. Thank you. Meg lehet védelme. Ja. Buono. Yeah. Thank you. Mert jako akorát. Teď už to je. A tak. Yeah. Milyen vastag. What? No. Ja. Mi a fasz? Ja. Mage. Jó. Jó. Jó. Megyek, ahol akarok. Basztalatos. Mi a most talán? Nézd, te rohadt. sem vannak. Thank you.